sentito un po' sofferente, se posso però interrompere un po'. Cioè, ho sentito un bel sospiro provenire da Jacopo prima di cominciare. No, pensavo da Kevin. Perché, come si dice, adesso parliamo di un film molto impegnato, quindi devo... Benvenuti, episodio 220. Bravo. Grazie. Allora, stavolta parliamo di non uno, ma ben due film, perché questo film è uscito nel nostro mondo, nel mondo e terra, due volte. Ma non dici prima perché ne parliamo? No, adesso lo dico perché ne parliamo. Allora, abbiamo costretto, io e Angela abbiamo costretto Jacopo e Andrea a guardare questo, a riguardare questo film, perché tutti noi l'abbiamo guardato, almeno una volta nella vita. E parlo proprio con te, tu che stai ascoltando il podcast. No, vabbè. Millennial penso quasi tutti. Esatto, è praticamente il film, secondo me, magari io sono un po' biased, però è tipo uno dei primi film al cinema in cui io ho scassato le balle a tutti per andarla a vedere, perché, insomma... Ah, c'è un'aspettativa a mille. Eh sì, non avevate anche la carta. Vabbè, comunque ne parliamo adesso lontano. Come no? Adesso me l'hai detto, non c'erano ancora i cinema in quel periodo. Può essere, no, in realtà c'erano. Prima c'erano, è proprio adesso che non ci sono. Davvero. Allora, il film in questione si chiama Pokémon il film. Pocket Monsters il film. Vabbè, sì, allora, in realtà la versione originale dovrebbe essere tipo Mewtwo Strikes Back, sì. in occidente, e in italiano è Mewtwo contro Mew, e poi è stato fatto un remake nel 2019. Allora, il film è uscito nel 98, nel 2019 è stato fatto un remake che si chiama allora, in inglese penso sia uguale, penso sia Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution, e in italiano invece si chiama Mewtwo colpisce ancora, quindi è la traduzione letterale, e l'evoluzione, quindi è proprio letterale al 100%. Intanto diciamo perché abbiamo registrato questo film, cioè perché abbiamo guardato questo film e stiamo registrando questa puntata, non so più parlare. Lo vuoi dire tu? No, prego. Ah, okay. Allora, lo voleva riguardare Angela e poi mi ha influenzato, perché stiamo giocando insieme, cioè insieme con due run diverse, a Pokémonza, il nuovo videogioco dei Pokémon. Allora, eravamo... Per celebrare, esatto, questo evento, per cui io ho preso in mano un videogioco di Pokémon dopo tipo... dopo Pokémon Rosso, quindi sono sono quasi 30 anni che non gioco a Pokémon, e abbiamo deciso di... Sono 25, anche semplice da contare. Abbiamo deciso di costringervi a riguardare questo film. E siete felici di questo? Ah, sì, io non me lo... cioè, sinceramente non lo ricordavo per niente, non sono sicuro neanche di averlo visto quando ero piccolo. Allora, e adesso abbiamo l'effetto anime dove ognuno ha detto una lezione. Sì, esatto, poi ci mettiamo. Vabbè, comunque, devo dire di cosa parla questo film. Vabbè, tutti l'avete visto. Questo film parla di... Vabbè, insomma, è un film che è stato fatto... È il primo film dei Pokémon, intanto. E quindi il primo film d'animazione uscito al cinema che parla di Pokémon, quindi parliamo della prima generazione, poi forse c'era qualche infiltrato, no, soprattutto nel remake, sì. Prima generazione, quindi diciamo era il film che portava a noi nerd o comunque bambini pre-nerd dell'epoca ai due Pokémon più importanti della saga nella prima cosa, che sono Mewtwo e Mew. E parla dell'origine appunto di Mewtwo, del Pokémon Mewtwo, quindi diciamo a seguito di esperimenti di clonazione è stato preso il DNA di un Pokémon antico ed è stato creato un Pokémon più potente da utilizzare come arma. Poi lui però è intelligente, quindi scassa tutto e abbiamo questa trama in cui Ash, il nostro protagonista, a tutti noi mancava Ash, no? Ash Ketchum e il suo Pika Pika. E Ash, il suo protagonista, è... diciamo, viene arruolato tra gli allenatori più forti, non so per quale motivo, visto che è il più sega di tutti, per battersi con Mewtwo su Kamale, però poi il potere dell'amore farà, insomma, dell'amicizia, sì, vabbè, quello, che porterà a un lieto fine, vabbè, che cazzo, tanto era un film di 30 anni fa che hanno visto tutti. va bene, cosa dire? Allora, intanto, vabbè, tutti l'avevamo visto più che altro perché volevamo la carta rara di Mew al cinema, che davano in omaggio. E nel cinema di Busca, quando sono andata a vederlo, l'avevano finita, quindi ero stata molto triste da piccola perché non avevo la carta di Mew. E penso di aver obbligato Mia a portarmi anche due volte al cinema a vederlo. Quindi ce l'hai? No, nessuna delle due volte, perché una volta sei al cinema del paesino di vicino casa, e l'altra volta invece erano andati al cinema nella grande Cuneo, dove c'era multisala. Questo weekend a Bologna la riprendiamo, così ti do la mia carta di Mew. Finalmente avrò la carta di Mew. E tra l'altro, cosa fun fact, la cosa di dare le carte omaggio è rimasta. Infatti, noi eravamo andati a vedere, penso con voi, Detective Pikachu, e davano la carta omaggio di Detective Pikachu. Vabbè, comunque non c'entrava niente. Film così importante, così famoso, che è stato deciso di fare un remake. Poi parliamo anche magari due parole del remake. Innanzitutto, voi come l'avete riguardato? È invecchiato bene? L'avete? Riguardato, è invecchiato bene? Ah, invecchiato bene? No. No. Non so come dirlo. Non so come dirlo, i disegni, insomma. Allora, è invecchiato, a mio parere è invecchiato male, sia per l'animazione, che vabbè ci sta, nel senso che non era, era un alto budget all'epoca, ma non così alto. Sì, da... ed era comunque giapponese l'animazione, quindi aveva i suoi problemi generici. Sì. Però esatto, poi non era così curata da essere un top di animazione, ed è invecchiata effettivamente molto male. E poi anche da un punto di vista più che di trama, che vabbè è giapponese, quindi puoi, diciamo, puoi insultarlo fino a un certo punto, come colonna sonora, come musiche, secondo me è una merda atomica. Sì, vero. Sì. Sì, la trama è che... Brother My Brother dei Blessed Unknown Soul, che... Si metteva una canzone del genere dagli anni 90 quando l'hanno fatto il primo film. Anni 90 quando l'hanno fatto. Vabbè, anche il remake non è che sia, cioè, nel senso, no, è proprio allora. La trama, secondo me, non è tanto che noi siamo che è invecchiata male, quanto noi che siamo cresciuti. Cioè, era un film pensato per i bambini, fatto per bambini. E che rimaneva tale, non è il film della Pixar che lo guardi da adulto e ci trovi tutto un significato che il bambino non vede, però ti piace perché ha tutto un suo senso e un'altra profondità. No, questo era un film per bambini, fatto per bambini, e da bambino ti gasavi un botto a guardarlo. Sì, ma solo perché si legnavano i Pokémon, non per il potere dell'amicizia. Ma tutto Pokémon era, il cartone era questi che dove erano amici e il potere dell'amicizia, sì, sì, però sì, eri contento perché c'erano i Pokémon e i Pokémon che si legnavano come... Sì. Però cioè, il suo obiettivo era quello e quello lo faceva. Poi lo riguardi a 30 anni e dici, vabbè, forse potevano aggiungerci qualcosa di trama. Però è la stessa roba tipo di Demon Hunter, no, K-pop Demon Hunter. Cioè è un film per bambini con delle belle canzoni, dove però la trama è una scusa, in quel caso per le canzoni, e questo per i Pokémon che si legnano. E il vero problema è il film del 2019. Perché non è che hanno detto, vabbè, mo che lo rifacciamo, gli diamo qualcosa in più. Lo facciamo magari un po' diverso, gli diamo un l'ha po' fatto di più. Paro. Paro. È identico, si cambiano solo. Cioè, pure le battute sono gli stessi, tipo. Cioè, sì. Il dialogo è terribile. È terribile. Infatti, cioè, il vero problema è quello di film, non quello degli anni 90 fatto per bambini. Sì. L'unica cosa che hanno cambiato era anche la cosa più carina nel primo film, che rimane carina nel remake, che è il Team Rocket. E hanno cambiato quando va a prenderli dall'isola. Ah, è vero, non sono più dei vichinghi. Non so perché, nel vecchio film del 98 sono dei vichinghi, invece nel nuovo sono in questa sorta di barchetta a forma di Lapras. Sì, no? Tipo, sì, quella del lago artificiale che vedi a Central Park. Quello l'hanno proprio cambiato. Un pedalò, ecco. È un pedalò, l'hanno cambiato del tutto, non so perché, però vabbè, Team Rocket è sempre divertente. Thank you. Sono d'accordo con l'analisi di Angelo. Cioè, no, vabbè, è un film... Sai cosa mi ricorda? La serie, quella Pokémon Concierge, che abbiamo visto tipo il primo episodio gratis quando è uscito su YouTube. Non so. Quella di Stop Motion, che dicevamo così. L'altra volta off-cam. Esatto, esatto. E che l'ho vista e ho pensato... Solamente un bambino riuscirebbe a vedere, cioè, non so, è proprio l'amore per i Pokémon che ti faceva vedere tutto in maniera diversa da piccolo, forse. Io onestamente non ricordo di averla visto al cinema, mi ricordo di aver visto tipo Toy Story, forse, o qualcos'altro, non so se l'ho visto al cinema. Sei l'unico che l'ha visto al cinema? No, io anche. Però l'ho visto a casa di un amico, tipo delle elementari, durante tipo un compleanno, e mi ricordo che mi era piaciuto tantissimo, proprio io disperato che Ash era morto, spoiler, però non era morto, spoiler. Ma scusa, il Pikachu che stava lì a prendere le legnate, cioè sì, disperazione pura da piccola. Mamma mia, sì, proprio tristissimo, proprio wow, incredibile, che messaggio così potente di pacifismo e sulla natura umana, no? Cioè, ancora adesso mi fanno dire tutti i meme che ci stanno su internet, che escono fuori, tipo, i film di oggi per ragazzi sono una merda, invece vi ricordate sì. Che dice tipo una sola frase decente alla fine, che era molto generica sulla pace, la natura umana, eccetera. Il resto del film non sa che cazzo fa, cioè, dice cose senza senso. Cioè, prima dice, mi avete rotto il cazzo, voi umani, così. Poi arriva signor Giovanni, signor Giovanni, però puoi essere mio schiavo. Va bene, facciamo il tuo schiavo. Poi però si rompe di farlo schiavo e quindi ci schiavizzo altri Pokémon. Sì, non lo so, proprio un susseguimento di eventi. Sembra una puntata allungata con sigle dei Pokémon brutte, scartate, messe dentro. La musica è forse una delle cose che è invecchiata peggio, forse pure peggio dell'animazione. Sì. È proprio brutta. Però, boh, che posso dire di positivo? C'erano tutti i Pokémon che conoscevo, perché sono vecchi. Quindi mi ricordo solo i primi 150, forse i primi 250, se mi sforzo, mi ricordo. Beh, la trama non si discosta molto dalle trame del videogioco, anche moderno. Cioè, a livello proprio sì. Demente, cioè bambino. Sì, sì, cioè... Quindi non è invecchiato, cioè è proprio così anche tuttora. Cioè, lo vogliono comunque fare così. Esatto, cioè... rimane così. Beh, scusa. Questo Pokémon... finanziariamente questo modello mi sembra che stia funzionando. No, vabbè, da un punto di vista di utili direi che sta andando bene. Non mi sento di criticare il modello finanziario scelto. Scusa, vai Angelo. No, era soltanto il film, appunto. Ovviamente, secondo me, cioè, se magari fai vedere a un bambino di 6 anni nel 2019, il film probabilmente ha magari la stessa reazione, non quello vecchio, quello nuovo, magari la stessa reazione di quando avevo 6 anni. Come tanti film di quando eravamo piccoli, che riguarda il distanza di anni, a parte qualche eccezione tipo Toy Story o Le Follie dell'Imperatore, che è comunque divertente, tante robe sono un po' figlie del loro tempo. Quindi diciamo che alcune cose sono invecchiate molto molto male, i dettagli sono terribili, i dettagli delle persone, dell'animazione, quello era proprio brutto, cioè i dettagli dei Pokémon non si sono sforzati. Non è che Oda in One Piece ogni tanto, vabbè, comunque. C'è tipo quadrata ogni tanto. Appunto, sì, vabbè. Ma comunque pensavo, adesso io legalmente non posso dire nulla, però rifacendomi a quello che si sa pubblicamente, mettiamola così, Nintendo famosamente è molto attenta è molto più attenta di tante altre aziende a come vengono rappresentati i Pokémon, ma anche Mario, Link. Cioè, le loro linee guida per usare i Pokémon, per metterli sulle magliette, per fare cose con i loro personaggi, sono molto precise. tipo non puoi fare questo, non puoi metterlo in questa posa, non può esserci questa rappresentazione. Cioè, quindi lavorare all'interno di queste linee guida, secondo me, deve essere complicato. Non voglio giustificare per niente Game Freak, cioè non sto dicendo ah, che brutta vita essere uno sviluppatore di Game Freak. Ma più che altro uno degli azionisti di Game Freak. Poi io lo sviluppatore nello specifico non lo so. Cioè comunque sono in Giappone, sì, quindi le condizioni di lavoro sono un po' quel che sono. Hai ragione, però diciamo a livello creativo è parecchio limitante. Da quello che so, da informazioni pubbliche, non sto dicendo nulla che non si sappia. Però secondo me, una spintarella in più potevano metterci, anche perché in Detective Pikachu c'era, nel senso che comunque Detective Pikachu non è che l'hanno fatto illegalmente, quindi un qualcosina in più, non dico di Ryan Reynolds, cioè stile Ryan Reynolds, però non lo so, qualcosina di... A quello nuovo dicevo. Detective Pikachu sul film. No, però rispetto a Pokémon nuovo sono d'accordo, cioè quello del 2019 è tipo, cioè, veramente zero effort, non li hanno manco preso. No, in realtà la cosa divertente è che ci avranno speso abbastanza soldi, perché comunque hanno rifatto tutta l'animazione. È l'unica cosa che hanno rifatto, cioè sì, letteralmente però, l'unica. Cioè, hanno completamente inutile. Sì, ma hanno risparmiato sullo storyteller, su quello che gli faceva la musica. Cioè... Però non è del tipo l'abbiamo ripreso, l'abbiamo... Cioè non è... Non l'hanno modernizzato. Come Star Wars, quando l'hanno rifatto... Hanno messo due lucine per le spade laser, hanno detto tiè, becati sto Star Wars tutto nuovo, hanno messo Jabba in 3D, hanno detto toh, becati questo, pagami altri soldi per il DVD. Questo l'hanno rifatto tutto, quindi comunque dei soldi ci hanno spesi. Però boh, che scelta è, vabbè. No, forse non l'hanno modernizzato, però è quello che... Sì. Mi spiace. Ma dovevano fare due film. Pokémon nuovo rosso, Pokémon nuovo blu, tipo. E andare a quel cinema punto fai la trilogia ed esce e fai pure Pokémon nuovo verde. Esatto, e vedi tutte cose diverse, cioè fai tre variazioni di film. Lo stesso film dove però all'inizio uno sceglie uno starter diverso. Mi ricorda qualcosa, comunque. Esatto. Ma voi il nuovo l'avete visto quindi o avete visto il vecchio? No, in realtà non ho visto quello nuovo. Ok, perché quello nuovo in realtà ha un'altra differenza. Che noi non l'abbiamo visto perché skippavi tutto quanto. No, visto io ho minuti. Visto le differenze. La differenza, un'altra differenza è nell'introduzione. Ah, è vero. L'introduzione è diversa. L'introduzione c'è tutta la parte di ricerca in cui trovano il DNA di Mew e tutte le cose. Ma, non so se lo sapete, il film originale aveva un'altra parte aggiuntiva nell'introduzione. C'era tutta... Sì, in realtà lo sapevo, ho letto che era okay. Tipo... Cioè che nel laboratorio ci stavano per tipo 5 minuti in più, cos'era? Praticamente il motivo per cui hanno clonato Mew era per, come prova, come test, perché il dottore che lo stava clonando in realtà ha accettato i finanziamenti per usarli anche per clonare sua figlia che era morta, tipo una cosa del genere. Okay. E tutta questa parte in cui poi la figlia non sopravvive, eccetera, eccetera, è stata censurata. Però in Occidente, in Oriente, dovrebbe essere uscito il film originale con tutta la parte della clonazione umana. Però si vede che per il 98 clonare una bambina... Per essere il 98. Cioè, pensate che tipo Giovanni, che è il capoccia del Team Rocket, no, quello malvagio, aveva dato dei finanziamenti a un ricercatore... per fargli fare in realtà un'arma, però gliel'ha venduta dicendo tieni, poi posso ridarti tua figlia. Cioè, in realtà la trama era profondissima all'introduzione. Però sono 5 minuti iniziali. A parte che Giovanni mi fa troppo ridere che si chiama Giovanni. Sì. Però ho un'altra teoria, che è troppo simile come storyline a una roba tipo Shadow the Hedgehog. Cioè, tipo Sonic, Shadow, cose, non lo so, mi sa molto... Cioè... Vabbè, però... Sarebbe stato bello, però sì. In Giappone era così, è in Occidente che non è più così. Credo esista una traduzione inglese diciamo, la parte sulla figlia, però al cinema dovrebbe essere uscita solo la parte censurata. Che strano. Noi siamo un po' bigotti su queste cose. Non siamo mica come il Giappone che è così aperto. Beh, pare che sulla colorazione non abbiano tutti questi problemi. Adesso. L'etica. Beh, nel 98 era. Nel 98 sì, c'era il pieno terrore di OGM e tutte quelle cose là. Invece ora puoi comprare un clone del tuo cane. No, diciamo che ora è, sì, e poi è anche scesa un po' la... l'ansia. L'ansia, sì. Ce ne sono di nuovo. Andatevi a vedere la serie TV The Rehearsal. In realtà non parla di clonazione dei cani, però c'è una puntata dove parla di clonazione dei cani che fa molto ridere. Però sì. Quando era la pecora Dolly? Mi sa proprio tipo il 96-97, non era quel periodo lì che clonavamo le pecore? Clonavamo sì. Poco, però sì. Pecora Dolly, no, è, sì, è proprio il 96. Ah, 96? No. Cioè, è nata nel 96 la pecora Dolly. È vissuta a lungo. Però sì, eravamo in pieno periodo appunto di terrore, no? Ah, adesso diventeremo tutti. Adesso c'è l'IA, quindi sti cazzi. Sono vabbè, altri è tornata problemi. Un po' quando c'era il COVID, che ti modificavano il DNA con i vaccini. Sì, sì, sì. Vabbè, niente, era solo per dirvi che in realtà c'era una trama molto più profonda, anche per adulti, ma solo nei primi 5 minuti. Chiaro. Poi si torna... E poi il film dopo, non so se ve lo ricordate, quello con i leggendari, esatto. Quello invece aveva un non era una cosa ecologica. Era esatto, aveva una roba sull'ambiente. Me lo ricordo poco, non mi ricordo che c'era una trama. Però non ecologica. Lo riguarderemo. No, no, no. Abbiamo celebrato questa cosa, possiamo andare avanti. Volevate dire altro sul film? No. Non mi viene in mente altro. Allora, volevo fare un piccolo follow up. Adesso tra un po' Angela ci saluterà. Però intanto un piccolo follow up sulla puntata su Frankenstein. Sono passate circa 2 settimane per voi, una settimana per noi più o meno. Abbiamo registrato 2 settimane fa. 2 settimane fa. Allora, 3 settimane. Oddio. Per voi. Così tanto tempo è passato? Eh sì, ma dopo come passa veloce il tempo? Sono anziano. Vi ricordate, no, allora, di no... Frankenstein, quel film di Del Toro, tanto tempo sì, fa? Sì, quello lì, ve lo ricordate? Allora, è uscito il 5 novembre. Boh. Allora, non avete Instagram anche voi pieno di sta roba? Ma io di gente che scrive di sta roba. Sì. Cioè? Sì, c'è... Allora, io ho diverse cose. Allora, la prima è sull'attrice, Elizabeth, quella lì... Mia... sì, mia quella là. Sì. E il primo post è: forse non lo sapevate che lei in realtà ha fatto ben 2 ruoli in questo film. Solo che il primo ruolo, il suo minutaggio è tipo irrilevante. Sì, tra l'altro c'era così tanto make-up, cioè così tante prostetiche in faccia che anche un mio amico gliel'ho dovuto dire io. Cioè, anche lui come me aveva detto chissà chi è questa attrice, mi ricorda molto Mia Goth. Cioè... Non era una coincidenza che fossero simili, però era proprio lei e io l'ho capito dopo, ma ci sta. Cioè... Sì, sì, ma va benissimo, però quello che volevo dire ai nostri amici di Instagram è che la sua performance è oggettivamente Elizabeth, nell'altra fa tipo ehi, ciao, sono la madre di Jacob. Cioè non è il suo personaggio principale, è solo per non pagare un altro attore. No, non lo so questo, però insomma... Sai che forse era già il mio regista la scorsa settimana? Vabbè, non mi interessa. L'altra cosa che vedo spesso è sono la simbologia. Non so se voi la... Ma voi non avete tutto sto spam? Sì, adesso devo andare. Adesso. No, io ho gente che l'ha visto e dice oh, bellissimo. Allora, la mia citazione preferita che ho già riportato in realtà a Salla è bellissimo l'uso del colore rosso. In che senso? Cioè, ci sono tipo 2 cose rosse. Bello, è bello il rosso. Le batterie. Un bel colore, ci sta che l'abbia usato ogni tanto. No, vabbè, io ho principalmente interviste su Instagram. Mi capitano interviste tipo di Del Toro, di Oscar Isaac, anche di Jacob, Lordi. Mi ha gotto poco. Che sarà in cima tempestose, l'ho scoperto. Cosa? Giusto per tenere tutti i classici inglesi. Sì, esatto. Fa. Jacob Elordi sarà il protagonista di Cime, cioè perché penso che l'abbiano già girato, e il protagonista di Cime Tempestose con come si chiama quella di Barbie? Ah, cosa? Marco? Margot Robbie. Esatto, con lei. E io l'avevo solo visto in un film terribile per adolescenti, quindi complimenti per la sua carriera. Incredibile. Comunque, la cosa interessante è che, secondo Instagram, io sono un immigrato spagnolo in Italia, quindi tutte le interviste che mi arrivano di Del Toro sono in spagnolo, con gente spagnolo, oppure parla in spagnolo con Oscar Isaac, lui in messicano e quello in guatemalteco, come cazzo si chiama. Però è interessante, cioè, mi capitano pezzetti interessanti, interviste anche... che vanno al di là del ah, ma quindi c'era un sacco di prostetica in questo film, cioè che è la solita domanda. Ah, bravo, sta... perché io invece ho solo quelle lì. allora, per farvi capire, a me cioè io ho letto un post l'altro giorno in cui c'era appunto era la diciamo tratto da un'intervista a Del Toro e come si chiama Oscar Isaac lì, il tizio di E spiegavano perché lui beve il latte. Ah sì, è vero, quello ho capito pure a me. Ho capito, sì. Ma scusate, cioè, allora, a parte Del Toro ti voglio bene, però una simbologia più ovvia non è che... Cioè, lui beve il latte perché è legato alla cosa materna, eccetera, quindi è... Cioè, ci voleva un po' su Instagram per spiegarmi sta roba. Beh, in realtà è un pochino diverso. Cioè, quello che ho avuto io come risposta da loro è... che volevano tenerlo, diciamo, al di fuori, al di sopra dei vizi. Cioè, una persona completamente concentrata, completamente, diciamo, assorbita dal lavoro, però... Sì, però dicevano anche che era fissato perché era una roba freudiana sul ricordo della... cioè, sulle origini, le sue origini, diciamo. Cioè, la sua infanzia. Solo che... E cioè è come dire, non so, lui ha sempre una bambola dietro perché gli ricorda quando era un bambino, cioè nel senso questa era la parte ovvia, non è che il film è bello per questo motivo, cioè, è un dettaglio del cazzo. Sì, come dire, il film è pieno di dettagli del cazzo. Sì. Ho visto poche persone parlare, diciamo, delle parti un pochino più... Esatto, è quello, mi dispiace. Più interessanti. Però, cioè, è difficile, secondo me, per... Cioè, le interviste più interessanti che ho visto io sono quelle che non parlano di sta roba, ma vanno più a fare domande personali a Del Toro o a Oscar Isaac, o a parlare di Mary Shelley, cioè... vanno un po' al di là del film, perché parlare, diciamo, approfonditamente delle tematiche, secondo me ci vogliono altri contesti, cioè non ce la fai in 5 minuti. Quelli si siedono, gli dicono, vai, hai 5 minuti con Del Toro, fai l'intervista, mm-hmm. Così la puoi mettere su Instagram e fare finta, capito? E poi non la metti neanche su Instagram, metti tipo delle immagini con sotto il testo in cui ti riassume una frase dell'intervista. Ah, cioè, tu quindi neanche vedi i pezzi originali, no, vedi no, qualcuno no, qualcuno che li ha presi? Esattamente. Oh, sì. Cristo. Vabbè, perché, cioè, Instagram non è un... Allora, cioè, esiste solo un social che è descrittivo e non è Instagram. Qual è? Sì, si chiama Substack. Ah, ok. Ed è un social fatto di, effettivamente, testo. Quindi la gente scrive come fosse un blog. Cioè, ogni post ha un brano da leggere. E lì puoi mettere l'intervista vera e propria. Invece su Instagram devi mettere un'immagine con tutta roba, se non un reel addirittura. Però, visto che ne stiamo parlando, vi consiglio un profilo su Instagram che non mi sta pagando, però è interessante. Visto che parlavamo del bello l'uso del rosso in Del Toro, io vi consiglio un profilo che si chiama colorpalette.cinema, non so se l'avete mai sentito, e praticamente prendono il film, cioè un film, e alcune immagini di questo film e le mettono su Adobe Color Wheel, non so se avete presente, vabbè, è un tool gratuito di Adobe che ti analizza l'immagine e ti prende in quell'immagine dei colori. Cioè ti divide i colori che compongono questa immagine. Ed è abbastanza interessante perché... vabbè, lo potete fare anche con gli screenshot del film, però su questo profilo ci sono alcune immagini a campione, e quindi c'è effettivamente l'uso del rosso che si focalizza solo in due parti di fatto, nella parte dell'angelo e nella parte dell'esperimento iniziale. L'esperimento è un po' perché ci stava bene il rosso, mentre la parte dell'angelo è più importante perché è lì che c'è il messaggio vero e proprio. E quindi niente, se vi capita, siete curiosi di sapere quali colori usano i registi e i direttori della fotografia, e andate su questo profilo e ce ne sono un botto. Ed è interessante perché di solito i registi utilizzano il colore per comunicare qualcosa, ma tendono anche a utilizzare le stesse palette. Vabbè, adesso a parte Wes Anderson. Vabbè, basta, ho finito il pippone sui colori. E niente. Quindi diffidate dei post su Instagram e venite a ascoltarci per la vera informazione. No, vabbè. Siamo proprio noi. Siamo noi. Vera informazione. Dai, niente. Se non dobbiamo aggiungere altro, vi ringrazio. Angelo ormai è scappata perché abbiamo parlato male del film dei Pokémon. Grazie di aver registrato con me questo episodio, grazie di averci ascoltato e ci vediamo settimana prossima con un film pare me. No, non lo so, adesso decidiamo cosa guardare. Cosa hai detto? Basta. No, cioè... Allora, adesso ne parliamo, chiudiamo la registrazione e ne parliamo. Ciao, ciao. Ciao.